Aspettando la zanzara. Ma ce l'ho messo in culo in Italia, certo. Quel coglione di Prodi? Certo. Sì. E se ne è ancora ammazzato. Cos'è sta? Nessuno ci ha pensato. Questo pazzo. Quello lì vi ha rovinato. Ma cos'è sta roba? Ha regalato tutti i soldi vostri italiani. Ma chi è? Dove cosa parla? Dove delira? Dove delira? Agnelli, Benetton. Ma cosa, ma perché non lo bloccano? E tutti gli imprenditori. Ma cosa dice sto cretino? Poteri forti. Che sono circa. Ma basta con sto cretino. Hanno contato circa 35.000 famiglie. Ma dov'è? Ma ebraiche alla fine. Ti rendi conto? No. Comune, ti rendi conto? In diretta in una televisione padovana, in diretta con Spatalino. In diretta con Spatalino. Ma è una situazione delinquente. Invitato. Allora diamo l'indirizzo per le forze dell'ordine. Sì, per le forze dell'ordine. Diamo l'indirizzo, di questa televisione. Insieme è un'occasione meravigliosa di fare una super retata. È un'occasione meravigliosa per le forze dell'ordine. Risparmiano perché in un momento solo trovano due idioti. Due idioti. Ma ti pare che uno invita, già è un imbecille quello che conduce, ma ti pare che poi invita come commentatore? Allora fermi, Mauro Damante. Telecittà. Sì, dai l'indirizzo, bravo. Telecittà via Termaglia. No, anzi, chiamiamo. No, via sarà Germania. Via, no, via Germania. Hai allora, a Padova. Via Germania 15 Vigonza Padova. Questa Vigonza. Vuoi dare tu l'indirizzo alla forza dell'ordine? Sì. Voglio che chiami in diretta quella voglio parlare con col centralino di quella trasmissione. Chiama in diretta, voglio intervenire in diretta nella trasmissione di Telecittà. E abbiamo da qualche minuto un telespettatore. Ecco io. Passami. Non vorrei che aspettasse tanto. No, passami in onda. Da dove ti ho interrotto? Imbecilli, voglio intervenire ancora. In diretta. Buonasera. Vaffanculo. Pronto? Pronto, buonasera. No, io voglio intervenire. Buonasera, no. Volevo dire una cosa a Mauro da Mantova. La prego, ci può dire da dove chiami? Sì. Senti. Certo, voglio intervenire siamo io in diretta. Vicino a Modena, in un paesino vicino a Modena. Prego. Senti. Un branco allora, di può succedere di tutto. Mauro da Mantova, io lo conosco perché ascolto la zanzara. Sì, e lo conosco come interventista. Sei e un so criminale. Hai creato Parenzo, un personaggio. David Parenzo, quello il suo arcinemico. Sì, arcinemico. E non è solo suo nemico. Pronto? No, dico, anche io non ho un buon rapporto con Parenzo. Comunque, ma cos'è sta trasmissione? Io mi querelo tutti. Il nemico, credo sia il suo nemico, Parenzo. So, mi è arrivata la notizia che Parenzo si è scopato le donne di Mauro Damante. Ma c'è frocio? Voglio capire. Ma c'è frocio? Questa roba qua sta. Mi prendete voi la responsabilità di quello che dice. Io allora, so che è regolarmente sposato Parenzo, ma che ha sono, perché? Sì. Cosa, ma come si permettono di Rete 4, quello con gli occhiali? Questa è novità, questa è una grossa novità stasera. Aspetta, prima che rimanga in attesa a lungo, vuoi aggiungere tipo. Ah, c'è una. Grazie comunque. Dopo ne prendiamo due o tre, poi dopo. Due o tre schiaffoni ti prenderai, tu altro che. Pronto? Pronto, buonasera. Sì, buonasera, sono Gianluca. Da dove chiami Gianluca, per favore? Non so dire. Da Padova. Prego, ma dici tutto. Ti volevo chiedere al signore lì, vostro ospite, il signore Biondo, il Senato. No, Biondo. Dopo aver parlato così bene degli ebrei, poi. Ma è una roba pazzesca, devi denunciare. Le solite sciocchezze, stupidate, di controlli, complotti. Ma in diretta sta porcheria adesso. Non so se gli ha detto che ha un informatore e un carrozziere a Caracas, se non ricordo male. Ma chi ha detto sto delirio? Mauro? Mi dica Pangalle, mi dica. Come Pangalle? Ah, ecco, lei conosce il mio cognome. Ma sono sempre loro, ma chi è sta gente? La vedo in forma. Ma è un manicomio criminale quella trasmissione. Che roba è? Scusa, fermi tutti. Ma che roba è? Io non capisco veramente. Cos'è sto delirio? Adesso torniamo. Era Mauro da Mantova in diretta da Enzo Spatalino a Telecittà. Vanno fermati assolutamente. Cercheremo di fermarli adesso. Diamo il numero in diretta di quella radio, di quella trasmissione. Andiamo subito. Criminali. No, sono un branco di criminali. Ma questa trasmissione in onda su Telecittà con Spatalino che ha ospitato Mauro da Mantova e ne hanno dette di tutti i colori. È un'associazione a delinquere, cioè vanno fermati, sono un branco di imbecilli, gli sto mandando lì la polizia così ne bloccano e ne arrestano due cretini patentati, due criminali. Ah, siamo in diretta finalmente su quella zozza, quella roba lì, quella immondizia, è tutto registrato quello che hai fatto, è tutto registrato in quella tua trasmissione quello che hai fatto, ti stanno arrivando, vengono i carabinieri a prenderti, altro che Telecittà, Telegalera diventa quella lì, Tele due palazzi ti diventa, Telegalera, siete due criminali, mi avete offeso pubblicamente e io vi querelo e vi denunzio. No, non chiudere tu. Non ho chiuso io. Non chiudere. È saltata la linea. No, Giulio, è saltato un corno. Ah, no, ma sei un imbecille. Un corno. Vedrai. Confrontati sui contenuti. Ma no, io ti lascio stare le offese. Per quello che hai detto, ti mando i carabinieri lì e vi faccio arrestare a tutte e due. È un coglione, poi dicono che io dico le brutte parole, scusami. Ma hanno fatto l'entrata. Timoni, telespettatori. Sarebbe stato opportuno che il signor Parenzo avesse detto qualcosa su quello che ha detto lui, invece di lanciare improperi, offese. Vedete, questo è David Parenzo, questa è la zanzara. Non si confrontano, ve lo giuro su Dio. Mai sui contenuti, più volte mi hanno chiamato e mi hanno offeso perché non si rivedono nella mia linea. Ma hanno chiamato in causa mio fratello con cui io non c'entro una mazza, io sono parte lesa in quel processo. E non affrontano mai Enzo Spatalino sui contenuti, sui temi da me trattati. È un perfido. Fanno bene ad odiarlo. Non merita niente, nessuna attenzione. Enzo, però chiedere perché la zanzara non fanno più hashtag Mauro da Mantova vs Parenzo. Perché quando gli andava bene il 68 era con me e il 32 era con Parenzo, quando gli andava male il 76 era con perché me. Perché avete abbassato? Perché avete chiuso la comunicazione? Siamo qui. C'è un confronto. Siamo qui. Addirittura quella trasmissione, come tu vedi, siamo andati in onda alle 6:30 in concomitanza con loro. Ecco perché non la seguo. Allora, scusami se ti interrompo e ti lascio parlare. Io ho saputo di questa trasmissione grazie al mio regista Daniele Arena. Chi è che mi ha informato? Come il donato. Io sono Squagliotto. È come il donato di Mario Giordano. È uguale. Cerchiamo di richiamare, vai. Daniele Arena è come Donato di Mario Giordano, è uguale. È uguale. Ma non diventare una carogna come i veneti, devi rimanere umano, tu sei napoletano. Certo che su Facebook in questi giorni sto leggendo tanti di quegli insulti su Venezia e i Veneti che non avete idea. Al pari della Segre, io mi domando, ma non è che ci vuole la scorta per tutti i veneti? Soffrire! L'abbiamo nominato all'inizio, Gigi Lista, un signore di Ischia. Fortemente antisettentrionale, lo chiamerei io. Divertiamoci un po'. Pronto? Lista? Sì, chi ha il telefono? Sono Cruciani, ma che stai a dire sul nord, il sud? Allora, Giuseppe, ma ti spiego che cosa voglio dire. Ma dai, basta, su, con sta allora, roba. Allora, mi fai una domanda e vuoi una dimmi, risposta? Dimmi, dai, forza, avanti, forza. Qual dai. È la domanda? La domanda è perché ti accanisci adesso, ci avete rubato i soldi, adesso date i soldi agli esercenti, date i soldi a quelli, sono gli aiuti che danno quando succede qualche tragedia. Il sud ha avuto... Ma glieli danno questi stessi ma soldi? Ma certo, materia riempita di quattrini. No, non glieli stanno dando 20.000 euro. Riempita di quattrini. Ascolta, 2 anni fa quando a noi c'è venuto il terremoto qui a Ischia, tutti quanti voi, compreso tu, avete detto che ce la meritavamo perché avevamo fatto le case a busta. Io lì si sono mangiati 7 miliardi di euro. 7 miliardi di euro per fare una diga. Giusto, a busta. Io non auguro il peggio ai veneziani. Io non posso augurare il peggio ai veneziani. Io auguro ai veneziani di riuscire ad avere tutti i fondi che loro hanno bisogno, ma io li voglio anche per noi. Sì, come così. Giustamente, come paese di Pulcinella, soldi come a tutti, così, soldi a tutti. Solo dire Pulcinella quando vieni messo alle strette. Dai, basta con queste cazzate. Ma sei un buffone, dai, su. Sei un pagliaccio. No, ma sì. No, ma non ce la fai, cioè tu non ce la fai. Non ce la faccio. Allora, soldi, tu, soldi a tutti, soldi a tutti. Soldi a tutti. Soldi a tutti. Per quale motivo sto qua, ma sto qua che massacrato, sto qua. Non gli hanno dato gli stessi incentivi che stanno dando a Venezia. Ma chi te ha detto? Ma hanno riempito il sud per anni e continuano a riempire il sud di quattrini, ignorante. Vi hanno riempito di quattrini che avete sperperato nel peggiore dei modi con i vostri amministratori corrotti, come quelli del nord, come quelli del nord. Guarda che in Veneto sono stati arrestati per 100 milioni di mazzette, buffone. 100 milioni di mazzette. Poi Lombardia, tutti arrestati, amici tuoi, tutti arrestati. Ma dove? Ma dove l'hai visto sto film? Dove l'hai visto sto film? Ma quali sono i soldi che gli hanno dato a Ischia? Io ti sfido a trovare un solo documento. Non devono dare un euro. Non devono dare un euro a Ischia. Un euro non devono. Non dovrebbero dare un euro. Perché non rispondi? Sì. Coglione, rispondi. Senti, lista. Poi mi risulta che tu difendi a spada tratta una signora che è stata da poco nominata assessore a Napoli, la quale dice che Israele è praticamente uno stato nazista e che Israele è uno stato tremendo. Gli israeliani sono l'esercito di Israele, uno stato di assassini. Tu la appoggi questa qua? Allora, lo Stato di Israele sta distruggendo il popolo palestinese da 30 anni. Ma lei è un genocidio, è un genocidio. Mi fa piacere che mi hai fatto l'assist, perché mo adesso devi essere uomo, io ti sto registrando, di mandare in onda questa cosa. Ma lei le risultano i missili che vengono lanciati ogni giorno sulle città israeliane? Missili che vengono lanciati dalla striscia di Gaza Strip. Ma parli del missile che ha ucciso i 34 palestinesi l'altro ieri? I palestinesi nascondono le armi sotto gli ospedali. Vabbè, aspetta. Bene a lanciare i missili sulla Palestina. Per cui genocidio, tu parli di genocidio. Qual è il concetto che vuoi portare avanti? I missili vengono lanciati da Gaza verso Israele. I missili, no, nessuno dice di... È una guerra difensiva, perché i missili partono dalla Gaza. È una guerra difensiva con la Palestina. I missili partono da Gaza. Quale i missili, le risulta dei missili che da Gaza partono verso le città israeliane? Le risulta o no? Sì, assolutamente. Allora va chiusa la discussione. Ascoltami. Come mi risulta che ma però, le risulta dei missili che partono da Gaza? Il genocidio. Quello palestinese è un genocidio. Era quello degli ebrei. Anche quello degli ebrei. Dunque, Israele per te non è uno stato civile. Ma sicuramente non è uno stato civile. Non è uno stato civile. Sì, lo posso cantare. Israele non è uno stato civile. Gigilista. Se Israele volesse. Se volesse domani mattina potrebbe radere al suolo la Palestina, Gaza. Radere al suolo. Che lo fa tutti i giorni. Ha parlato l'esperto di Medio Oriente che dice anche che il nord rapina il sud. Pensate, lui sostiene anche che il nord rapina il sud. Allora, tu lo sai che il Veneto, la regione Veneto, prende più soldi di tutte le regioni del sud insieme? Sì, perché dà anche di più, amico mio. La regione Veneto da sola prende i soldi di più di tutte le regioni del sud Italia, evidentemente. Dunque c'è una rapina alla base. C'è una rapina alla base, dici. L'organizzazione fiscale italiana è una rapina nei confronti del sud. Ma vaffanculo, lista. Ciao, lista, sì, con i dati. E vedete che Schillaci in qualche maniera riesce a sgusciare via. calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini, inserimento di Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro! Tanti le chiamano storie di sport, per me sono storie della nostra storia. Sono Dario Ricci e vi aspetto ogni sabato alle 22.30 e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia per raccontarvi tutte le sfide tra gli dèi dello sport, naturalmente qui su Radio 24 e su radio24.it il podcast e i contenuti extra di ogni puntata. Aspettando la zanzara. Via! Da questo canale! Fermo là, ingegnere! Sì. Oh, grandissimo, sì, ingegnere, come stai? Mi dica. Come stai, ingegnere? Stai zitto, Parenzo. Stai zitto. Stiamo lottando per eliminare per sempre le mascherine. Dal primo agosto niente mascherina da nessuna parte. Beh, non è che lo decide lei, però, ingegnere, non è che lo decide lei, primo agosto niente mascherina. No, ma noi siamo il popolo, ma stiamo scherzando? Popolo, ma questo delizio, noi siamo il popolo. Scusami, ma noi dobbiamo stare sottomessi a un branco di mentecatti come quelli attuali. Ma cosa dice sto pazzo? Cioè, noi siamo il popolo, siamo quelli che praticamente decidono perché noi siamo a dovere ogni giorno combattere con questa gente con la mascherina. Scusami un attimo, ingegnere, scusami. Lo dice Clementi, ma sa cosa ha detto Clementi? Sì, se sì, viene rinnovata l'emergenza, lui va in piazza. Scusami un attimo, Negri, scusami un attimo, hai paragonato Conte a Hitler però l'altro giorno. Conte ma no, infatti, come? Ma Conte, ma stiamo scherzando, ma praticamente lei sa che... Ho capito, ma Hitler! Il Parlamento tedesco, Hitler... ha chiesto l'emergenza. Ma non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Ma Conte è peggio. No, ma come fai peggio a dire che è peggio di Hitler? È peggio perché praticamente lui vuol mettere in atto la cessazione della libertà con un decreto. Ma ho capito, ma peggio di Hitler, stai dicendo che è peggio di Hitler. Un atto amministrativo. Vuol finire la libertà con un atto amministrativo. Ma non è vero, la libertà non c'è. Ma la libertà assolutamente. Il DPCM non c'entra ma niente. Ma lascia perdere il DPCM. Il DPCM non può. Ma siamo talmente liberi. Il DPCM non può essere mai più utilizzato. Allora lui vuole poteri speciali. Ma Hitler che c'entra? Vuole i poteri speciali. Ma Hitler che c'entra? Non possiamo concedere. Noi siamo il popolo. Noi siamo il popolo. Tu sei il delirio. Ma tu sei un pulcino. Tu c'hai il cervello. Ma quale pulcino? Guarda, ma vaffanculo. Basta. Delirio. Sei un delirio. Sei un delirio. A casa tua hanno cambiato le chiavi. Ti hanno cambiato le chiavi di casa perché sei un rompicoglioni. Allora, fermo un attimo. Allora. Io noi per dobbiamo me... considerare questo. Cosa? Dobbiamo noi considerare chi? Che in Italia noi non vogliamo più i raccomandati come quello lì che sta Ma come ti permetti? Ma neanche l'elemosina stareste a chiedere. Ma come ti permetti? Delirio. Sei delirio. Ma noi chi? Montagna di stronzate che dici? Però aspetta, ma noi chi? Megalomane. Fermo un attimo. Megalomane psicotico. Psicotico megalomane. Ma non sento quello che dice. Negri, fermo un attimo. 35.000 morti. L'Istituto Superiore di Sanità. Ma questo è un megalomane psicotico. Non sa la causa dei 35.000 morti. Ma quale causa? Non capisci niente, psicotico. Però scusami, Negri, scusa, su una cosa posso dare... Siete dei raccomandati. Vabbè, d'accordo. Zero. Sì, scusa. Raccomandati. Voi, se non fossi raccomandati, sareste tu, a chiedere l'elemosina. Sì. Perché dammi siete retta, dei super mediocri. Dammi retta. Ingegnere! Voi fate parte della... l'emergenza, di quelli ingegnere... del canale unico del virus. Avete rotto il cazzo con il virus. Vabbè, ciao. È finito. Ingegnere. Non c'è più niente. Questo... Ciao. Questo è pazzo. Ciao, ingegnere. Pazzo. Ciao. Basta con questa storia. Ciao, ingegnere. Ma rinchiudetelo. Ma su questa rinchiudetelo. Ma su questa ragione, su questa ragione non c'è più niente, su questa ragione. Ma rinchiudetelo, ma rinchiudetelo. Ma cambiategli la serratura di casa, Porello. Mamma mia, non ti sopporta nessuno neanche a casa tua. Neppure a casa tua. Silenzio, anzi, cambiato le chiavi di casa. Devo chiudere. Da cazzo decomposto, non la faccia da cazzo normale, da cazzo decomposto. Ciao, ingegnere, grazie. Ingegnere dei miei coglioni sei tu. Tu sei l'ingegnere dei miei coglioni, capito? Ciao, Ciambellano, ma ingegnere del buco del culo. Ciao, ingegnere. Aspetta, fermo un attimo, fermo che ricomincio. Aspetta, fermo un attimo, fermo là. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. Bravo, bravo. Ma quanto mi ami, dirla tutta in modo, tutta la vita. Allora ricominciamo col mitologico ingegner Negri, però calma ragazzi, calma. Io voglio dire una cosa a Negri, sulla questione dell'emergenza io posso anche dare ragione a lui. Cioè c'è stata un'emergenza, c'è un'emergenza eccessiva adesso e probabilmente in autunno ci sarà un casino a livello di disoccupazione. Però amico mio, non puoi paragonare ancora una volta, paragonare Conte a Hitler, dire che è peggio di Hitler, amico mio. Ma questa è una follia. Spostato. Dai, basta su con gli spostati. Ingegneri. Io non voglio essere comandato da Casalino. È ma chiaro, tu no? Sei uno spostato. Basta. Ma vai a votare. Basta, vai a votare quando ci... Noi dobbiamo. Noi, perché noi. Ma noi siamo voi. Quelli. Noi siamo la parte intelligente del paese. Ma voi siete i ruffiani di Conte. Ecco, vergognatevi. Almeno ruffiani di una personalità. Ma perché sei una persona così sola? Ma che cosa ruffiani ti è successo? Ti hanno abbandonato tutti perché sei pazzo. Sei pazzo. Non è più pensabile. Ciao, ogni volta che tornavi a casa, ogni volta che tornavi a casa, basta mascherine, distanziamento sociale, vanno aboliti. Ma tu il distanziamento sociale lo avrai comunque perché nessuno vuole stare con te. Dal punto di vista economico il paese sarà distrutto. Allora, ciao ingegnere, ti saluto. Ti saluto ingegnere. Ciao. Aspettando la zanzara. Allora, c'è un signore, caro Parenzo, a Verona, fra poco tenteremo una telefonata, che si chiama, non so se lo conoscevi, essendo in Veneto, Luigi Bellazzi, è stato intervistato la settimana scorsa. Piazza Pulita, era ospite Pulita. Da Formigli. L'hai sentito, quelli, no? L'hai sentito con la tua viva voce. Quell'infame è stato intervistato dal grande Lasta che lo ha scovato. Sì. Pur, non un era avvocato. In collegamento, era intervistato, era chiuso, sì. Quindi non si poteva dialogare, non si poteva insultare quell'infame. Sì. E credo che la procura, spero, anzi che la procura di Verona sia già intervenuta. Allora, questo qua è un avvocato, dice sono fascista e negazionista. Senti, io senti. Non ce la faccio, io penso che sbrotterò. No, ma non lo sto chiamando ancora. Intanto voglio farti sentire quello che hai già sentito, ma voglio farlo sentire agli altri. Da Piazza Pulita. Ma è giusto che vengano fuori queste persone? Ma certo, l'asta ha fatto benissimo a intervistarle e famiglia mandarle in onda. Ora si deve denunciare. Io mi considero fascista. Che se non le va bene fascista, fascistissimo. Nazista? Troppa grazia. Negazionista? Però, negazionista, sì. Così, semplicemente negazionista. La banalità del male. L'olocausto non c'è stato, ragazzi. Ma veramente è incredibile. Come cazzo si fa ancora? Siamo nel 2019. So che ci sono molti giovani, quelli che vengono anche alle nostre dirette, ai nostri live. Cioè non si può far passare il messaggio che l'olocausto non c'è stato. Questi se ne fottono, giustamente pensano a trombare, non è che pensano all'olocausto. Però in questa trasmissione noi intervistiamo chiunque. Abbiamo anche intervistato un nazista americano che diceva Heil Hitler, diceva le peggio cose sul Führer, eccetera. Ma e poi l'abbiamo spernacchiato. Cioè uno non può dire che l'olocausto non c'è stato, perché questa qua è una roba ridicola. Ora, come sai, per me c'è la libertà di pensiero. Dunque questo qua, questo è un poverino. Cioè uno che dice che l'olocausto non c'è stato lo può dire, perché in Italia gli è consentito di dirlo, evidentemente. Voglio arrogarmi il diritto di non credere certi fatti storici. Quali? Quali ad esempio l'olocausto. Non c'è mai stato. Io sono convinto che non c'è la prova che ci sia stato. Signor Bellazzi, mai esistito un programma di genocidio. Gli ebrei sono morti per epidemie di tifo, quelli che erano dentro i campi di concentramento, ragazzi, è pazzesco. Beh, ma allora quelle immagini che abbiamo visto girate dai russi appena entrate ad Auschwitz, con tutti quei cadaveri ammassati lì, scheletriti, che cosa sono, invenzioni? Scusi, non è mai esistito un programma di genocidio del popolo ebraico, mai. C'è tutta una storiografia a quale ritiene che queste persone siano purtroppo, disgraziatamente e disparatamente morte per epidemie di tifo. Lo Zyklon B, un gas per disinfettare le baracche. Lo sai che vengono i brividi pure a me? In realtà è talmente minoritaria questa roba che non no, ti ma può... è grave che sia una pseudo, un avvocato, un personaggio avvocato, così. Mi un... dicono in pensione che non esercita più, comunque. Il Zyklon B, per esempio, che era il gas che usavano ad Auschwitz, non è mai esistito neanche quello? A che cosa serviva? Ma lo Zyklon B serviva ad un certo punto per disinfestare le baracche. Le leggi razziali meravigliose, pazzesco. Le leggi razziali, le dovrei, potrei darle definirle meravigliose. Pronto? Gigi? Sì? Come andiamo? Sono Cruciani. Bene. Senti Gigi, ma quelle tue cose che hai detto, che è sta musica? Alleluia, pensa a te. Ma perché hai messo Alleluia? Perché mi piace. Cioè alleluia, ti rilassa. Anche se è di Cohen. Cantautore ebreo. Perché esatto, bravo. Che c'hai contro gli ebrei, scusa? Niente, assolutamente niente. Però hai sostenuto in questo caso è Alleluia. In questa casa qui è Alleluia degli mortacci sua, si potrebbe però dire. Scusami Luigi. Chi è che parla? No, è Parenzo, lascia perdere. Luigi, volevo dire Parenzo di Padovano. Padovano. No. Luigi, scusami un attimo. Io voglio dire una cosa. Come fai a dire certe cose? Cioè io ascolto tutto, ma non puoi dire che lo Zyklon B serviva per disinfestare le baracche. Ascolta, se tu vuoi credere a un certo punto alle bufale, sei libero, come le stragi di Saddam, le armi di sterminio di massa di Saddam. Ma scusami, ma quelle sono cose accertate. C'è una logica che è quella della verità storica. Ma d'accordo? Appunto, quelle sono cose accertate, amico mio, che servivano ma per certe cose. Accertate da chi? Ma uno può raccontarsi qualsiasi cosa, ma se ma uno... Ma scusa! Ma che è un grande complotto? Nazisti. Dagli stessi nazisti, tra l'altro. Gli stessi nazisti hanno detto quello che hanno fatto, brutto, infame. Ma chi è che parla? Parenzo. Ma però... che vada da via il culo, Parenzo. Allora, scusami, tu hai detto una cosa, che il genocidio del popolo ebraico non c'è stato. Amico mio, persone morte per tifo, hai detto. Ho detto a un certo punto che c'erano delle gravissime epidemie di tifo. Ma il tifo c'erano perché erano trattati come delle merde umane e dunque c'era anche il tifo. Ma c'è Russia stato il genocidio. Come erano trattati? Ma anche ma lì. Ma nessuno hai dice. Visto ma le foto dei nostri soldati. Ma certo, ma che c'entra? Difesa, prigionieri. Ma cosa c'entra? Ma scusami, Bellazzi, cosa c'entra questo? Ma quello. Ma c'è anche quello. Ma anche quelle sono stragi. Ma quello è stato un genocidio. Tu ne che ci sia stato l'olocausto, questo è il punto. Ma scusa, ma posso essere libero? Scusa, c'è una logica nella storia, nella critica. Senta, domanda aspetta, che io ti pongo, perché senta. Ad un certo punto Gigi, scusami, non è stata costituita una commissione internazionale. Ma l'olocausto c'è. Rispondete a questo. Gigi Bellazzi, avvocato Bellazzi, l'olocausto c'è stato, tu dici che non c'è nessuna prova che ci sia stato, perché io dico storicamente vergognati. Non c'è nessuna prova. Ma come no? Ma ci sono miliardi di testimonianze. Io non sono in compagnia di Cruciani. Sono in compagnia della Bettier, sono in compagnia di Roger Garodì, sono in compagnia. Allora... tu non sei che fai le parnacchie. che sei un cretino, quello senta, lì che pare per me. Quello è il livello, senta, è il livello di intelligenza. Caro avvocato, mia nonna è stata in campo di concentramento. Nel campo di Bergen-Belsen. Allora, i suoi parenti allora... sono morti nel campo di concentramento. Ma scusa, io se la trovo sovietica a Verona, le sputo in faccia! Se la trovo per strada a Verona, le sputo in faccia, oltre a denunciarla alla procura. Le sputo in faccia! Io le sputo in faccia! Brutto nazista! Le sputo in faccia! Le sputo in faccia! Io le sputo in faccia! E la denuncio alla procura della Repubblica! Infame! Infame! Se ti trovo per strada, non ti tocco, ma ti sputo in faccia! Bellazzi, io non capisco! Ti sputo in faccia! Io non capisco una cosa! Ti denuncio alla procura! Ti denuncio alla procura! Infame che non sei altro! Io ti sputo in faccia! Nazista schifoso! Ti sputo in faccia! Avvocato! Ti sputo! Come si fa a dire? Come si fa a dire che l'Olocausto schifoso non esiste? Ma perché? Perché? Schifoso! Come si fa a dire una cosa del genere? Schifoso! La prova maledetto schifoso, ci sono maledetto schifoso, calma, Davide, che non è tu caso sia maledetto, non è caso. Io ti denuncio alla procura, mia nonna è stata in campo di concentramento, maledetto Bellazzi, tu sei libero di dire quello, tu sei libero, infatti sei qui, sei libero di dire quello che vuoi. Il punto fondamentale è che uno è anche libero di dirti che sei un coglione. Hai detto anche di essere fascistissimo e quando ti hanno chiesto, giusto, ti confermi di essere fascistissimo, benissimo, fascistissimo, e hai detto anche nazista, lei è nazista, beh no, troppa grazia, cioè questo significa che ti piace qualcosa del nazismo, di quel signore con i baffetti, ti piacerà qualcosa del signor Hitler o no? Mi piace ad un certo punto Hitler, l'ordine, la disciplina, Hitler, l'organizzazione che c'era in Germania. Culo. Mi piace che la Germania abbia difeso a un certo punto l'Europa. Uno sputo in faccia è meritato. Uno sputo in faccia è meritato. Fate la storia di Topolino. Ma Hitler era un criminale! Era un criminale il signor Hitler! O non ma era un pazzo criminale? Nemmeno Stalin era un criminale. Beh, ma i capi di Stato, ma chi ha detto non che non possono essere dei criminali. No, no. Hitler, tu non puoi pensare, dunque, Hitler che 80 ha fatto, milioni dunque di Hitler ha fatto delle cose buone. Si siano sacrificati ad un certo punto per un criminale. No, non è un come criminale. Non puoi pensare, non è un criminale. Vabbè, Hitler, a meno che tu non sia come Berlusconi, il quale si inventa che Stalin a un certo punto ha i famosi 100 milioni di morti, vittime del comunismo. Qualche morto queste l'ha fatto. Sono stupidaggini. Dunque Hitler stupidaggini. Qualcosa di buono l'ha fatta secondo te? Hitler ha fatto qualcosa di buono? Il patto Ribbentrop Molotov. No, ma in generale ha fatto qualcosa di buono per il suo paese. Tu ha hai detto difeso che... l'Europa. Ha difeso l'Europa. Ma ha distrutta l'Europa con le guerre. Ha l'ha difeso, distrutta. Ha difeso l'Europa. Questo è pazzo, ragazzi. Cioè, ma... Ha difeso l'Europa. Ripeto, va se bene. Qualcuno per caso, nessuno tocchi l'avvocato, ma se qualcuno ti sputa in faccia, ha tutto il mio applauso. Ma sei un pazzo scatenato. Ci la procura per questo che ha detto. Procura, non c'è problema. Cioè, se non lo so se la procura. A rinchiuderlo in un ospedale ben specializzato. Sì, ecco come Ezra Pound, come la Ezra vostra Pound. Libertà di pensiero. Ma quale libertà di pensiero? Sono un coglione, un coglione. Diverso, ma quale diverso? Bene, quello bravi, è il nazismo, è un crimine. Complimenti, è un crimine il nazismo, è un crimine. È bravo, un crimine. Parenzo, bravo, è un crimine. Chi la pensa in un modo diverso? No, ma guarda che per me, ma in ospedale, ma scusa, sei un malato di mente, sei. Caro Bellazzi, a me non me ne frega niente né dei tribunali né dei denunce, giustamente Parenzo fa quello che vuole, a me non me ne frega niente. A me interessa quello l'ha già fatto lei abbondantemente, il suo più chiacchierato di Verona. Quando vai a Verona parlano solo del suo. È il più chiacchierato il tuo di Verona. Però Bellazzi, posso dire una cosa, se io ti trovo per strada ti sputo in faccia. Senza toccarti. Senza toccarti. Io senza toccarti neanche una mano ti do addosso, ma ti sputo in faccia. Però posso dire una cosa. L'orgoglio di sputarti in faccia. Posso sputo in faccia, caro. Ma ti sputo in faccia. Posso dirti, ricordati che tutto quello che hai detto, che tu sia maledetto per quello le che leggi, hai detto. Tu hai detto anche che le leggi razziali, tu hai detto anche che non le leggi razziali, hai detto anche che le leggi razziali sono meravigliose. Come cazzo ho fatto a dire che le leggi razziali sono meravigliose? Scusa. Se fossero state quel crimine infame, non sono state. Mio nonno è stato cacciato dall'ordine degli avvocati. Mio nonno è stato cacciato dall'ordine degli avvocati. Brutto imbecille. Lo avete fatto ministro di grazia e giustizia nel primo governo Badoglio. Mio nonno è stato cacciato dall'ordine degli avvocati. Andiamo ai fatti. Nel secondo governo Badoglio. Andiamo ai fatti. Mi volete spiegare perché Togliatti l'ha nominato? Mio nonno è stato cacciato dall'ordine degli avvocati. L'avete fatto giudice costituzionale. Andiamo al concreto. Mi volete spiegare perché l'avete fatto presidente della Corte Costituzionale? Bellazzi. Allora ti si farà una domanda storica o no? No, perché le leggi razziali le leggi razziali sono delle cose è merda, è pura merda le leggi razziali, chiaro? Brutto infame. Mio nonno era avvocato a Padova ed è stato cacciato dall'ordine degli avvocati. Cacciato, è dovuto scappare in Svizzera. Brutto infame, maledetto. Brutto infame, schifoso. Se ti trovo per strada ti sputo in faccia. Ti sputo in faccia. Io se ti trovo per strada. Mio nonno è stato cacciato ed è scappato in Svizzera. Non poteva più lavorare. Brutto infame. Non potevano lavorare con gli enti pubblici. Brutto infame. Brutto infame. Brutta merda. Se io ti trovo per strada ti sputo. Maledetto. Maledetto. Tu sei un maledetto. Tu sei un pane maledetto. Bellazzi del buco del culo. Ciao Bellazzi. Scappi. Ma vaffanculo. Scapperai tu. Tu scappi. Io ti sputo in faccia. Schifoso. Bellazzi di fronte alla verità. Bellazzi, non dire cazzate, vai. Maledetto. Dai, ma vaffanculo. Ma vai a fanculo. Maledetto. Non dire puttanate. Maledetto. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Aspettando la Zanzara. Vittorio? Sì. Eccolo. Eccolo. Come andiamo? Benissimo. Senti, io a questo punto bisognerà difendere la libertà di espressione contro l'attacco dei giudici che forse non ti vogliono incriminare per odio, per parole d'odio nei confronti di Silvia. Non possono perché c'è l'articolo 21 e poi c'è la insindacabilità dei parlamentari. Oggi anche uno in aula l'ha detto. Sì, ho capito, ma addirittura vado dai carabinieri. Sì, però... ma no, quello che tu hai frainteso è che lei è una ragazza che ha subito una violenza, quindi va guardata con rispetto, qualunque cosa dica e faccia, è andata dai magistrati indicando quelle che secondo lei erano delle forme di insulto, di minaccia. La mia invece è semplicemente un auspicio, l'auspicio che chiunque combatta contro il terrorismo, sì, l'auspicio è che i collaboranti, caro Parenzo, esatto, bravo. Fallo parlare. Osservazione, perché non vorrei che fossero tramiti per il terrorismo. Se a te piace, fatti i tuoi. Israele, no, non mi piace, ma ti è uscita male questa volta, te lo dico con affetto, male, Vittorio, ti è uscita molto male, perché dire a una ragazza che ha passato 535 giorni in uno stato detentivo con i suoi complici, quello che ho detto, chi, quali sono i complici? Che condividono in tanti, quali sono i complici? Sono un cretino, vittima, come te, non capisce. Vittima, sono un cretino, vittima, come te, non lo capisce. È vittima, vittima, non complici, vittima è. In questo momento è complice, tu non sai se sia vittima. Ma quale ipotesi di chi? Ha ragione lui, ha ragione Vittorio. Di Israele avrebbero preso a calci nel culo. Tu sei un terrorista come loro, sei pericoloso. Ma ha ragione Vittorio, in Israele. Sospetto che lei possa essere un collegamento con le filiali terroristiche. Ma chi l'ha detto? Ma ha ragione. Se tu fai propaganda per loro, come hanno osservato le persone intelligenti, vuol dire che sei pronta a fare quello che loro ti chiedono. Imbecille, compreso metterti una cintura di dinamite. No, ma ha ragione, ma perfettamente. Ragazzi, ma scusate, cosa ne sai, Celestino? Cosa ne sai? Ma cosa ne sai tu? Bisogna fare prevenzione. Bisogna fare prevenzione, ma cosa ne sai tu? Questa sarà l'inchiesta che sta facendo la procura. È bastato che lei scendesse da quella scaletta. Che logica. Hai allora, hai detto una Vittorio, hai detto fatto una Vittorio, no, non un paradosso, no, un'iperbole, hai usato un'iperbole. Un'iperbole del cazzo in questo caso. È un rischio che lei venga utilizzata da una banda terroristica per mettere in difficoltà l'Italia. Potrebbe valere per tutti quelli che sono stati vittime del terrorismo internazionale islamista, no? Vale per chi si dichiara parte di un gruppo terrorista, come ha fatto lei. Ma non sappiamo, non si è dichiarata parte di nessun gruppo terrorista. Ha detto semplicemente che si è convertita all'Islam. Ma a cena col dottor Ina e dice che è stato corretto. Anche De André diceva che i suoi sequestratori sono stati corretti. La canzone Hotel Supramonte. Vai a vederti la canzone di De André. Vai a ascoltarti la canzone di De André. Sono terroristi e tu sei un povero cretino. Ma tu devi leggerti la canzone Hotel Supramonte. Ma che cazzo, che non ricordi, dire, non no, sai, no, non dire cazzate. Chiedi ad Orighezzi, chiedi ad Orighezzi. Qui siamo di fronte a una minaccia contro l'Occidente. Idiota. Siamo di fronte a terroristi che hanno usato cristiani. Cretino, incapace totale. Allora ha ragione Vittorio per un semplice motivo. Perché stai zitto, vuoi stare zitto un attimo? Vuoi stare zitto in dialettica perché sei un povero deficiente. Ha ragione Vittorio per un motivo molto semplice. Non c'entra la dialettica, non erano minacce, erano auspici. Io voglio gli amici dei terroristi in galera. Esatto. Come tutti sarebbero gli amici terroristi. Esatto, ha detto potenzialmente, ma lui dice di indagare. Lui dice di indagare su questa roba qua. Sta a lui dire di indagare. C'è la procura che lo sta già facendo. Chiedere di indagare. Faccio una denuncia io. Denuncia precisa perché ho paura che ma lei sia il collegamento con dei terminali terroristici. Non c'è nessun bisogno di dire una fregnaccia simile perché la procura sta già indagando e sta cercando di capire. La fregnaccia è tua, tu sei amico della mafia e amico dei terroristi. Ma, quello sei tu, sei un povero terrorista coglione, un falso ebreo. Ma non dire minchiate, amico della mafia. Le dici tu minchiate. Ma non ho capito, ma in Israele. Lecca culo, filo comunista, quello sei tu. Ma cosa c'entra il filo comunismo? Che lei ha ostentato il gruppo perché che l'ha rapita, deliri, non l'ha sconfessato, è una convertita, non una sconfessata, tu sei un povero idiota. Lei non ha sconfessato nessuno. Lei è perfettamente del nemico. È appena sceso. Ma che ne sai tu dell'interrogatorio che ha fatto dai carabinieri? Ma che ma interrogatorio ha fatto? L'interrogatorio è andata per dire, per rispondere dei social con tutti quelli certo. Che dicono giustamente no, quello subito. Che vogliono. E ti manca un passaggio. Chiunque potrebbe no. Andare appena a denunciare che sui social è stato trattato male. Che discorso è? Adesso dicono che vogliono dare la scorta. Che dici? Stai zitto un attimo. Dicono che vogliono dare la scorta, Vittorio. Che cazzo è sta roba della scorta? Era follia. Devono darla a noi la scorta, non a lei, perché lei potrà sempre, col collegamento che ha con i suoi amici terroristi, essere pericoloso per i cittadini. Ma tu ancora questo insisti con questa vero. Roba? Ancora proprio insisti finché con gli amici terroristi? Quel gruppo, cioè, e non dice solo criminali, è pericolosa. L'ho detto dal primo giorno. L'ho detto dal primo giorno. Non ho sentito ancora una parola chiara da parte di questa ragazza, con tutto il rispetto, contro i suoi carcerieri, dove deve dire solo degli aguzzini. Ma magari dopo 18 a quel finto ebreo che sta creando minacce per i suoi. Non, deve amico 18 mesi di detenzione amico in cui ha dei detto terroristi. Che per, ha pianto un amico giorno dei terroristi notte, non è mio amico dormito un per amico terra, dei terroristi ma non, non, non è mio amico stronzate. Ma quale amico dei terroristi ma è non un'amica stronzate. Dei terroristi l'ha io detto sto anche a quello che lei ha dichiarato ha confessato i suoi abitori li ha lodati ma Cruciani mica è dei servizi segreti li ha lodati ragazzi non ho sentito una parola ha detto non mi hanno trattato ha dormito per terra per 18 mesi le hanno dato da mangiare delle porcherie ma chi l'ha detto ma chi lo so ma che lei vuol dire ha dormito per terra ma ha detto che è stata trattata ma non li ha rinnegati non ha detto solo dei criminali ma ha detto solo corretti di e Stoccolma ha aderito alla una cosa loro posizione terroristica come... è non antica come la sindrome di Stoccolma è antica come la sindrome di Stoccolma ma scusa terroristi, sei un amico dei terroristi. Ragazzi, ma è molto semplice il ragionamento che fa Vittorio, non è così strano. Una persona che viene, il mio ragionamento, la tua idiozia, tu ti esponi al pericolo del terrorismo lodando una complice per dei terroristi. Per ora è una vittima, per ora non è una vittima. Se tu hai altre notizie, la vittima, vai alla procura. La vittima per non rinnega l'Occidente e la religione cristiana per diventare terrorista. La vittima dice che sono nemici i suoi nemici. Ma ragazzi, ma mi pare una cosa abbastanza chiara. Se una viene qua sorridente dicendo, tra l'altro, mi hanno trattato bene e, mi chiamo Aisha come la sposa bambina di Maometto, non dice una parola contro i suoi carcerieri, uno si potrà porre il problema, si potrà porre il problema vittima. O no? Non per è ora vittima. È una vittima, non è una e vittima, lui non è sa una un complice. Cazzo di questa vicenda, non è una vittima, è una complice. Ma, e tu sei un delinquente, ma questo è gravissimo quello che tu dici, ma è una cosa gravissima quello che dici. Ma vorrei vedere cosa farebbe una cosa prova simile. A immaginare questa cosa con Netanyahu, prova a immaginare l'Israele, prova a immaginare se mai accoglierebbero una in quel modo. Convertirsi all'Islam non è un reato. Ragazzi, bisogna capire in quali condizioni si è convertita, questo è l'unico tema. Esterno è un reato, appoggiare i terroristi è un reato. Il concorso esterno esiste anche quello, appoggiare i terroristi è un reato. Adesso questa si bisogna capire, ma che c'entra, che ne sai che è successo? Là. Che ne sai cosa è successo lì? Legata non lo sa- ai terroristi. È pazzesco. Ma certo, si è presentata con i loro abiti. Certo, uno avrà un sospetto o no? Porca puttana, avrà sulla un sospetto o no? Ma indagherà la magistratura, per ora è parte lesa. Sì, ancora peggio se è strumentalizzata, perché lo sarà. Sarà obbediente a loro invece che riconoscente a noi. Obbediente a loro invece che riconoscente a noi. Questo sarà. Le chiederanno visto, qualunque cosa. Hai visto troppe serie televisive? No, quello non vedo un cazzo. Ti sei rincoglionito nella quarantena. Ti sei rincoglionito. Hai visto troppo Homeland. Hai visto troppo Homeland. Hai visto troppo Homeland su Netflix. Ridicole. Troppa televisione hai visto. Vedere cosa pensano gli italiani che ti ascoltano. Povero ricco. Già lo sappiamo, già lo sappiamo. Allora, la posizione di la cosa ridicola di serie televisive, hai ma quello non è serie televisiva, ho sentito lei. Lei è complice dei ma terroristi. E come fai a dirlo? Ti scommetti lo ha detto, sono stati corretti, non ha rinnegato certo. Quelli ma questo allora, sono in molti a dire che i sequestratori sono stati corretti, sai, se vai a vedere la storia dei sequestri. No, guarda. Purtroppo sì, purtroppo è così. E tu ti sei rincoglionito nella quarantena perché hai visto troppa televisione. Hai visto troppa televisione. Ma non la vede la televisione, non guarda un cazzo. Sei un povero cretino, sei un rinnegato. Sei un rinnegato. Lei obbedirà a loro. Ti assumeranno a Netflix adesso. Ti assumeranno a Netflix adesso. Complimenti. Ti assumeranno a Netflix per fare una nuova serie televisiva. Questo è il pericolo. Questo è il pericolo. Che sia il loro strumento. Beh, certo, ma è una possibilità. Adesso assumeranno Sgarbi a Netflix per fare una nuova serie televisiva. Evviva, farei una nuova serie. Povero idiota, falso ebreo, rinnegato. Vorrei vedere, devi chiedere ai tuoi amici in Israele cosa avrebbero fatto di questa. Sono storie diverse, ma cosa c'è di questa? Vergognati. Ma quando parte la nuova serie televisiva? Quando la fai? Quando inizia a collaborare? Con me, quando inizia a farla? Quando la fai? Quando la fai? Come si chiamerà? Come si chiamerà? Chiara Aisha, la nuova serie televisiva che scrivi? Come si chiamerà? Chiara Aisha? Chiara Aisha si chiamerà? Tu hai visto troppa televisione, troppa, durante il Covid, ti ha fatto male a te, ti ha fatto male a te, te lo dico io. Amico della mafia, amico dei terroristi. Allora prova a immaginare una scena da Parenzo, prova invece di dire cazzate, prova a immaginare una scena all'aeroporto, all'aeroporto Ben Gurion, come si chiama? Bravo, all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, che cos'è? Tel Aviv, si presenta una signora vestita da islamica appena liberata da una prigione dell'Islam in uno stato non so dove. Secondo te gli israeliani, i tuoi amici, i tuoi fratelli israeliani possono consentire diversi, ma quali contesti? Il terrorismo è un fatto mondiale, è un fatto mondiale. Ma secondo te idiota. Io posso Ma allora adesso idiota, convertirsi all'Islam complice, è diventato un reato complice, improvvisamente complice, nel codice di Hammurabi, nel nuovo codice di Sgarbi Hammurabi, convertirsi all'Islam è un reato. Ma non abbiamo è l'Islam, no, non sei convertito all'Islam, viva, sei convertito alla banda. Ma quando esce la serie, la tua serie TV, quando esce Aisha Romano, quando esce la tua serie Aisha Romano di Vittorio Sgarbi prodotta da Netflix, quando esce, ma in nome della religione non puoi difendere i terroristi. Ma quando esce la serie alla fine? Aisha Romano di Vittorio Sgarbi, Netflix, quando esce la nuova serie di Homeland? Quando esce? Quando esce la serie? Povero idiota. Miseria. Dimmi, ciao Vittorio, avanti tutta, avanti tutta, avanti tutta, avanti tutta, avanti tutta, terroristi, povero idiota. Comunque ragazzi, la cosa vera è questa, dice Sgarbi, abbiamo portato in Italia un nemico, doveva rimanere là, secondo te dovevamo lasciarla là, Vittorio, sì o no? Pazzesco. Questo lo dice Ornella Vanoni, io non dico nulla, per me dovevamo dico liberarla lui, e che lei ringraziasse noi e non i suoi carcerieri. Sì. Questo fa qualunque persona che abbia il senso, dando dei danari con cui hanno già deciso di comprare le armi per fare attentati in Israele e in tutto il mondo occidentale. Questo faranno. Quindi questa farà attentati. No, faranno i terroristi. Faranno gli amici della nostra babba, li stanno già preparando, caro mio. Ma sei proprio ignorante. Tu invece di vedere dei film, vedi Paperino. Sei un povero cretino. Guardi Paperino e ma lo hanno detto loro. Vedi le bombe. Guarda che l'hanno già fatta una serie simile. Si chiama Homeland. L'hanno già fatta questa storia. Inventatene un'altra. Si chiama Homeland. Si chiama Homeland. Ciao Vittorio, avanti tutta. Lei deve ringraziare gli italiani, non lodare i suoi rapitori. Occupati di Caravaggio, che è meglio. Ma che cazzo di Caravaggio? Che sei più serio. Occupati di Caravaggio. Sei ignorante. Occupati di Caravaggio e del Correggio. Occupati del Caravaggio, che è molto meglio. Ma che c'entra? Occupati di quello, che è molto, molto meglio. Meno pericoloso. Tu sei contro la libertà di espressione. Sei contro la libertà. Perché ieri quando hai detto ieri quando abbiamo parlato di questa cosa di una possibile indagine su Sgarbi hai detto bene, giusto, rispetto, bene, giusto, certo, bene, giusto cosa simile, ma che cazzo c'entra l'odio? Ma non dire cazzate. Scusami, una è sta rapita per 18 mesi, torna in Italia e si becca pure questa montagna di merda. Ma che stiamo scherzando? Ma è pazzo questo, è pazzo. Vabbè. Ciao Vittorio, ciao. Ciao, manda a fare il culo quel parente, non chiamarmi più con lui. Non è più un amico, è un nemico dell'Occidente, è un nemico di Israele. Non voglio più neanche pensa parlarti. Caravaggio, tu va. Sei finito. Non voglio più parlarti. Caravaggio, vai dalla tua amica. Vai dai tuoi amici. Vai dai tuoi amici terroristi. Vai dai tuoi amici terroristi. Fuori dai coglioni. Non voglio più vedere uno pericoloso per la democrazia come te. Non voglio più vedere. Del Correggio. Occupati del Correggio. Fuori dai coglioni. Ciao Vittorio, ciao. Godo come un riccio. Chi è? Ah, Efe, eccola qua. Ah, ciao. caro Parenzo. Ma cosa ci fa? Ma prima o poi te lo faccio. Un bacio a tutti. Oh, sei a Roma. Sei a Roma in tour. Sono in tour di sesso. Prima sono stata a Torino, in via Milano, affitto un appartamento molto bello. Ma a Roma dove affitti? Anche il video. Ah, adesso lo vedo. Proprio in ma dove affitti, scusa? Piazza Campo dei Fiori. Oh, istigazione alla prostituzione. Andate in Piazza Campo dei Fiori dove c'è la casa affittata dalla signora Efe Ball, no, per carità. Però hai sentito che hanno arrestato il fratello di Cirinna? Cosa pensi, Parenzo, su questo avvenimento? Ma adesso che c'è? Adesso non è che fai tu la trasmissione sul fratello della Cirinna. Ho anche condiviso il mio profilo di Facebook. Scusami, io ti volevo chiedere una cosa, cara Efe. Cosa vuoi che pensi io? Ti volevo chiedere una cosa. Avranno delle prove, immagino. I diritti di gay, magari poteva educarlo suo fratello meglio. Ma così cosa c'entra lei? Ma le colpe dei padri o delle sorelle fratello, non ricadono sulle persone, no? Fratello, ma vedi che fratello. Allora sei scema, patocca. Vedi che allora sei scema. Non è che tua madre ha responsabilità per come sei tu. Fratello, tua sorella, è sempre la stessa famiglia, capisci? Se sì, lui lasciamo perdere. La mafia, sicuramente anche la Cirinnau ha fatto no, la sì, no, no, no, no, questo non si può dire assolutamente. Adesso ti becchi pure una cara bella querela, spero. Vabbè, sì, sa che cazzo gliene frega. Oh, vabbè, intanto però pagano, si becca una bella bella querela. Io te la farei, fossi della Cirinnau. Io ti farei una gran bella querela, perché c'è il dolore della sorella. Anche la sua querela, tra i cazzi. Beh, bravissima, così si becca, così finalmente paghi, non paghi le tasse, ma ti becchi la querela di Cirinnà e metto a disposizione della Cirinnà il mio avvocato gratis. Ragazzi, se volete calmare tutti e due, tutti e metto due, giù. A disposizione giù tutti e due, Cirinnà, mi avete rotto il cazzo. Allora, oggi mi avete veramente rotto i coglioni. Voglio dire una cosa, Efe. Scusami, noi abbiamo avuto l'esempio di ieri di una prostituta, Susanna, la puttana della Salaria, tu sei a Roma, che ha detto che essere prostituta è un disastro, che provoca dei danni mentali pazzeschi, ha detto di essere dipendente dal sesso, che non può stare senza i clienti che le vengono addosso, che se la scopano, eccetera, eccetera, ed è andata in cura da uno psichiatra. Tu ci puoi assicurare che non farai questa fine? Quanti clienti hai fatto oggi? Io ho fatto 8 clienti oggi, mi deve arrivare un altro che ha visto un po' su Facebook, quindi lo sa che sono a Roma, mi ha chiamato. 8 clienti oggi, 8 clienti. Sì, verrà il nono. E cosa hai fatto con questi 8? Con l'ultimo, per esempio, cosa hai fatto? Devo dire la verità, un po' mi scopo, non un po' scopo, io si fa 69. L'ultimo che hai fatto con l'ultimo? Abbiamo fatto un po' di tutto, mi ha scopato lui, ho scopato io, insomma, un po' di tutto. Un po' di tutto. Abbiamo dato anche il... Che cosa hai mandato? La cosa del... Vediamo che ti ho mandato, aspetta. Che ti ho mandato. Aspetta un attimo. Aspetta, qual è l'audio? Sentire un attimo. Aspetta. Mentre vengo succhiata. Ah, questo qua sei tu che esatto. Io sono ferma e mentre lui che mi succhia. Questo qua è la, diciamo, la descrizione di quello che fai. Ma insomma, voglio dire, che mestiere è che può portare al disastro psichiatrico, come dice Susanna, questo mestiere di prostituta? Ma abbi pazienza. I taxisti, quelli che adesso lavorano nel settore di turismo, che devono andare a finire con psichiatri, anche perché poverini sono senza lavoro e senza niente. Noi prostitute lavoriamo ancora, se io amo questo lavoro, non vedo perché deve finire alle c'è la donna psichiatra. Cioè tu dici la prostituzione è il mestiere cruciale, tu sai anche meglio di me che tutto il mondo gira alle fine intorno al sesso. Uno compra una bella macchina per trovare delle belle fighe, compra una bella casa per trovare delle belle fighe, lavoro, guadagno dei soldini per andare a divertirsi nei locali per trovare delle belle fighe. Io il sesso è la cosa più importante che esiste in questo mondo. Io faccio ogni giorno sesso, guadagno, mi amano, mi fanno godere, mi pagano di più per farmi sborrare, detto proprio volgarmente, capisco perché dovrei finire da una psicologa. Allora mi stai dicendo che tu il lavoro tu... più bello e più vecchio del mondo. Dunque mi stai dicendo che non c'è crisi. Che non hai mai avuto crisi. Oddio, però attenzione, questa è una donna, viene solo scopata. Io sono un trans. Io devo dire che mi diverto perché scopo tante volte anch'io, capisci? Non è che mi vengono tutti scopati. Per cui tu stai dicendo che non correrai, aspetta, c'è la figa, il culo. Tu stai dicendo che non correrai il rischio di finire come ha fatto Susanna da una psichiatra. No, guarda, io non entro mai in crisi, non sono mai in depressione, ma se mai un po' giù di morale sono, vado da Hermès, da Gucci. Faccio un po' di shopping che vale 5-6-7 mila euro e poi torno a casa e faccio altri clienti. È bello così, ma no. Aspetta, guarda, un attimo, Maurizio Ruggero, tu vorresti convertire Feballe? Che bisogno ha? Che tipo di intervento ha? Capito, Maurizio? Che intervento ha bisogno, Efe, secondo te? Dunque, beh, a parte, non voglio indagare anche su quello che c'è, sotto le coltri e sotto le vesti di questo, di questo. In che senso? Questo qua è un transessuale con l'uccello, te lo dico subito. Appunto, quindi siamo di fronte a un sodomito. Alla fine siamo... è peggiorato, perché io mi ricordo all'epoca in cui ci trovavamo a Tele Lombardia, almeno una voce più normale ce l'aveva, adesso veramente c'è una voce femminilizzata che fa anche un po' ripugnare. Maurizio, dimmi allora. Ma sei sempre pessimo, cioè come si può vivere tranquilli e una vita felice, felice per quanto sia possibile su questo mondo, lontani da Dio. Poi addirittura facendo i peccati, tra l'altro i più orrendi. Che peccati orrendi? Quali sono i peccati orrendi che sta facendo? Anche quelli di sodomia, perché in questo caso non è anche una relazione fra persone di sesso diverso, seppure con... Ma tu, una prostituta transessuale, no, che fine farebbe nel tuo mondo? Cioè nel tuo mondo ideale, che fine farebbe? Verrebbe bruciata, rogo? Che punizione avrebbe nel tuo mondo? Ma che fine facevano i sodomiti nelle città tradizionali? Evidentemente venivano puniti, no? Puniti come? Puniti come? Beh, puniti anche si arrivava fino a rogo, perché naturalmente un conto è... Fino a rogo. Che si converte. Ma che dai, si converte, è una prostituta in più, che fine fare? È una prostituta? Ma questa non è una prostituta, questo è l'errore. Qui noi non siamo di fronte alla prostituta, come no? Siamo di fronte a un rapporto sodomitico. E beh, che allora è pagato. Cioè, che è più grave. Va bene, io voglio capire una cosa, scusami, Efe, tu te lo fai. Ma cosa cazzo sta dicendo questa? Deve andare lui da un psicologo, non io. Ma beh, entrambi. Cosa ha voluto dire? Che sei una sodomita, spiegare? Sei una peccatrice, È un sodomita. Usiamo le parole corrette. Almeno io faccio peccati, che non è un peccato tra l'altro, e vendendo il mio ma corpo. Ma se sei anche turco, oltretutto, ma che c'entra? Turco. Quindi oltretutto è pure di ascendenza islamica. Che male c'è? Non ho capito. Che male c'è? Questo ha bisogno di essere ricoverato e fare un TSO in caccia. Oltretutto sei anche vecchio. Perché se eri sulla piazza 10 o 20 anni fa, al tempo di Tele Lombardia, adesso sei anche veramente... Scusami, Efe, tu farei... Siamo qui adesso al telefono, io te, dimmi cosa cazzo vuoi da me, cosa vuoi, cioè, cosa vorresti spiegare, parlaci in italiano in un modo semplice, anche che sei una peccatrice, che sei una peccatrice, ha detto... Sono felice di essere una peccatrice, io faccio con il mio corpo, con quei clienti che vengono a trovare qui. Quello che vuole, quello che vuole. Ma che corpo e corpo, c'è pieno di ammazzamenti nel vostro mondo, c'è pieno di disperazione tra di voi. E allora, è un mio problema. Certo che è il nostro problema, perché poi dopo venite da noi a farvi curare, dal nostro servizio sanitario, dai nostri medici. Però non sono più abituato in tutta la mia vita. Ma scusami, se venisse, scusami, Efe, se viene uno con un cliente come Maurizio Ruggero, cioè secondo te è un cliente domando che tu... via, perché questi, ma allora questo non troverà mai il coraggio realmente di trovare, ma io ho orrore di questa roba, come parla ha voglia, ha problemi psicologici, ma che voglia, vuole essere ricoverato lui in ospedale. Questi tipi di uomini a me non vengono, perché io, a parte che non sopporto chi viene da me, sono uomini molto decisi. Ma lui non si è mai fatto una sega, signor Ruggero, non si è mai masturbato. Cerchiamo di capirsi, cioè una cosa è il rapporto normale, una cosa è una roba tipo Efepal. Tanto lei si chiama Efepal, perché la pal l'avete tolta? Perché è una palla. Cioè, fermola, fermi tutti e due, fermi là, vi abbandono, fermi là. Aspettando la zanzara. Luciani, minchia, stamattina verso mezzogiorno e mezza, entro in un bar di Milano, angolo Cenisio via Induino, un bar, anzi dico anche come si chiama, Bar Harmony, vabbè, un bar di cinesi. Minchia, entro lì per prendermi un caffè, mi cade l'occhio su uno che aveva il coppino completamente tatuato, una bestia enorme, che lo guardo, che lo vedo, c'è uno specchio, vedo uno con un occhio bionico leggermente sminchiato, cazzo, era il Brasile che parlava con altre due persone, lui era lì che ascoltava, devo dire, minchia come mondo il piccolo, ho visto il Brasile, minchia che grosso che è, quanto è brutto, Maria Vergine Santissima. Minchia, ma come fa questo qui a copulare con una donna? Mamma mia, quanto è brutto! Quanto è brutto! Che poi è così grosso, puttana nella miseria, che si sarà fatto di ormoni, perché uno, minchia, così grosso non può essere. E se si è fatto di ormoni, minchia, il pisello, che già l'avrà un centimetro quadrato! Yeah. Ma guarda su, sta sempre con suo telefonino. Ma che cazzo oddio, stai questa voce la conosco, chi è? Sì, sto cazzo. Dov'è? Oddio, mi sento la voce. Ma che? Oggi che vengo lì. Ma dov'è? Ecco, ma vicino. Dov'è sta voce? Guardate le gambe, guardate le gambe. Oddio, ecco, il Brasile ha invaso la sede di Milano. Amici della Confindustria, attenti. Sono arrivati gli invasori, Parezzo. Quanto sei bello, guarda come sei vestito. Che ometto, ma non mi dico ometto. Guarda come è vestito. Ma dove sei? Dai, mi pare il pinguino dell'unghi. Ma dove cazzo sei? Ma che pinguino? Questo qui è un vestito, caro. Quando tu farai, quando io ti rieducherò in questo straordinario programma televisivo che farò, ti rieducherò, ti porterò dal mio sarto a Napoli e ti farò fare. Io ho questo vestito in velluto, vedi? Con quel vestito, mando a comunione. Ma che sta vestito in velluto? Si mi invidia la comunione di tuo figlio, vengo col vestito. No, pare adesso bravo. Allora, ragazzi, se non l'avete capito bene, il brasiliano qui via Monterosa con l'occhio bionico. Ha fatto un'accusa gravissima. Dice che ti sei pompato e dunque c'è il pisello del cazzo bionico, amico mio. Io ho l'occhio bionico. Puoi ricordare i tuoi centimetri? Ce n'ho 21, amico mio. 21 calcolati, già misurati. Ce l'ho pure storto. Se c'avevo dritto, ce n'avevo 25, amico mio. E neuroni quanti anche? A banana, Giuseppe. Ci stai dicendo? Un cazzo sembra una banana ciliegina. Adesso non occorre entrare sempre nel merito. È storto sul serio. A banana proprio, Giuseppe. Ma come mai? E come mai? Cioè, ce l'ho storto a banana. Sei nato così. Ma si urina in faccia suo. Allora. Si urina in faccia allora. Sì. Prima si parlava di culi pelosi, di ascelle. Lo sai come li faccio scorchiare i culi pelosi? Ma che vuol dire? Cosa vuol dire scorchiare? I peli scrocchiano, no? Però a te non piace il pelo, mi sa, non sei uno. No. Perché sei uno solo patate lisce. Solo patate lisce. Castano mezzi i denti, cioè felice. Tu sei un purista da io questo sono punto di vista, sei un moderno, sei ultramoderno, sono da questo punto di vista. Sono. Cioè, nel senso che tu sei abituato ormai, perché non è che sai tanti anni, quanto sei? Cioè, io sono a 40, come cioè, no? Sì, a 40 anni, però non sei abituato ai vecchi film porno, ai peli, dove c'era il pelo. Ma cioè, che scherziamo? Tu il pelo non lo so, in una donna non lo so. Deve profumare di albicocca, sai queste patate che profumano di albicocca, no? Ma quali patate? Di cosa parlate? De solca, papà Renzo. Però voglio capire una cosa, il brasiliano in gita a Milano, qui trasferta a Milano. Vai a Milano. Che c'è una a partita? Milano, no, non c'è una partita. Sono andato a vedere un museo del 500. Del 500. Non c'è un museo del 500. Apposta, il bravo. Museo del 900. Ah, no, del 500. Del 500. Il museo del 900. Io non ho capito se. Lì dentro ci sono tutti i futuristi, ad esempio. C'è Dalla. Sai cosa sono i futuristi? Come no? Futuristi che pure su Italia 1 lo fanno. No, non lo so. Che cos'è Futurama quello? No, ma che butta. Futuristi è una corrente. È una mano. Una corrente. Fa freddo, su chiude la finestra, ci c'è corrente, guarda. Cosa? È impossibile. Chiudi la finestra. Cosa? Ma è impossibile. Ma perché è insegnare? Non sa cos'è il futurismo. Ma è normale non sapere cos'è il futurismo. È un arte il futurismo. No, Marinetti. Casa Ampedonia, mi pare. Ma cazzo. Ma non sa chi è Marinetti. Ma tu sai che era voce del bosco. Il quarto stato. C'è uno dei più grandi. Il quarto stadio. Quale squadra? Il quarto stato c'è dentro quel museo del Novecento. Ma cosa? Balla, sai chi è Balla? Balla. Ballarò. Ballarò però lo sa, Ballarò lo sa, Balla è uno che tra l'altro ha fatto un enorme stato di Mussolini del 2000. Ah, ok, perfetto. Cioè una delle più famose, perfetto. Sì, lui è comunque sì. Allora, togliamoci subito il maglione. No, togli il maglione. No, tutto me devo spogliare, mi sono levato tutto, Hitler, no, Mussolini, tu veramente? Tutto. Beh, ma ragazzi, questa è big news. I tamburi, metti i tamburi. Si spoglia la radio 24 ore. No, non ma che stai a fare? Ma che stai? Mica cazzo, che stai qua, lo copro. No, che fa? Attimo. Ma è impazzito! Sfoglia di attimo. Allora, arrivo a Hitler. Non ci sta più. Questa è una Madonna. In Goroneda, questa è la Madonna. Cioè, hai fatto al posto di Hitler la Madonna, no, ragazzi. Questo è eccezionale. Questa cosa. E la vera redenzione passa anche attraverso queste cose. Non è nulla questo. Ma perché è nudo così? Però? Beh, è nudo. Come se ti deve far vedere. No, vai dopo, giù. Dopo un privato te lo faccio vedere, parente. No, ma per carità, ma io. Guarda, io faccio vedere, io ero così freddo qua. Ma per carità, mamma mia, ragazzi, che bestia. Qui che c'è? No, questa era. Ma che c'è scritto? Che cos'è? Qui c'è. Spero non lo chiamare più zio Adolfo, che sembra che abbia ancora. Che tu abbia ancora una vicinanza. Lo zio Adolfo. Ancora con lo zietto, stai. Siamo adesso. Sì. Questo che cos'è, scusa? Mamma mia, questa scena agghiacciante. Questa che cos'è? Guardie infami, no, questa, vabbè, devi togliere anche quello. No, mo fra un po', questa ancora sempre. Ancora con guardie infami. Ancora non so. Ma io sono sono dalla parte sempre della polizia. Vai. No, aspetta, eccolo. Ma tira giù, beh. No, ecco. Ma cosa fa che si spoglia? Qui c'è stava Benito Mussolini, non c'è più, adesso c'è un teschio. C'è un teschio. Beh, insomma, siamo sempre in ben ambiente della morte, però. Sembra un teschio. Ma non potevi farti tatuare un libro? Ma fatti tatuare un libro, scusa. Ma che libro tatuare? Libro, sì. Vai. Allora, un teschio. Mamma, però un po' di palza ce l'hai, un po' di palza ce l'hai. Un po' di palza ce l'hai. Le bombe quelle sono. Come le bombe? No, cioè, il doping, dici? È il doping. Avvicinati un attimo, se non si sente. Ah, ok. Allora no, non c'è più Adolfo, non c'è più Benito. Non c'è più Benito. Qua. Non c'è più nulla. Non c'è più nulla. Nulla. Però tu non sei mai stato, diciamo la verità. Chi ti diceva che eri neofascista? No, ma non mi è mai fregato un cazzo. Non ti è mai fregato un cazzo. Con il mondo intero. E siccome volevo che tutti gli altri mi attaccassero per poi picchiarli, io mi sono tatuato il peggio che ci poteva stare, capito? Che però a te non te ne è mai fregato ma un cazzo. Ma mai un cazzo proprio. Non sai nulla, non sai nulla del signor Hitler. Del signor Hitler qualcosina mi sono informato, ma diciamo che adesso non è non è il caso. Non è il caso di parlarne, perché penso che un po' di retenzione che ho fatto, quella mi brucio pure quella, mo. L'aspetta che mi rimetta la maglietta. Ah, rimetti la maglietta. Ecco, bravo, esatto. Allora, io però vorrei chiedere, una volta che si è rimesso a posto, al signor Brasiliano. Sai, caro Brasiliano, al Museo del 900 c'è un quadro famosissimo di Fontana che è un taglio sulla tela. Come bravo? Che è un taglio sulla tela. Era un bel portiere, giocava con Cesena nell'86. No, non era quello. Sai che vale qualche milione di euro quel quadro? E andiamo a fare, ma davvero? Ma andiamo a fare? Che vuol dire andiamo a fare? Andiamo a rubare. Ma che vuol dire andiamo a fare? C'è sempre un animo di delinquenza. Conosco due che fanno solo i quadri dentro i musei. Ma guarda, te giuro su Dio. Ti prego. Fanno tutti i quadri. Oh, te giuro su Dio. So due mostri. Famo mezzo milione per uno. Sono specializzati. Sono specializzati in quadri, io. In tutte queste cose. Quanti delinquenti conosci tu? Tutti. Di che tipo? Solo rapinatori di tutto. Rapinatori di banche, di poste, di porta valori. Cioè, se uno ha bisogno, che ne so, di ammazzare qualcuno. Ci avevamo tutto. Tu lo trovi. Come ci avevamo tutto? Ma che vuol dire ci avevamo tutto? Come fosse una macchina di tutto? Per gambizzare, per far sparire, per ammazzare per tutto. Sì, io li conosco. Che li conosca non vuol dire nulla. Vabbè, ma io è una vita che conosco, tutta la vita che. Scusa, per esempio, uno che entra dentro un posto, adesso tu hai aperto una specie di negozio, no? Ok, un negozio, un negozio di barberia, di tatuaggi, eccetera. Entra dentro un negozio e vuole rapinare. A me mi fa una pippa, fa una pippa a noi. Prima di tutto, si legge mala buona, non puoi entrare perché è del brasiliano. Quindi non vabbè, metti che un pazzo entra. Un pazzo e va a morire, vieni da mala buona, se piglia 5 euro, dopo però muore, dopo è morto. Cioè, tu se avessi una pistola che faresti? Io ti sparo un petto finché non muori, capito? Finché non muori. Ma mica siamo nel Far West. E poi nel cadavere lo famo sempre lì, perché tocca far sparire il cadavere, perché sennò chi lo va a pagare? Dunque, quel giorno lei ha fatto benissimo. Ha fatto molto bene, però doveva far sparire tutti. Giuseppe, questo non ha fatto sparire casa. Ma è un'istigazione a delinquere. No, vabbè, diciamo che stiamo parlando del passato. Parenzo, tu non ti preoccupare, zitto, leggi i messaggi sul telefonino. No, ma stavo. C'è una cosa: domani, sabato, c'è la manifestazione delle sardine. Delle sardine là. Sardine. Massa buone sardine, però sì. Che insalata sono. Però potresti andare con Paparezzo, namo. Bravo. Io Paparezzo e Casa Pound. Lo sai come stiamo bene? Vate va, Paparezzo. Sabato, perché non vai con le sardine? Tu andresti con le sardine? Io con Paparezzo andrei, no? No, ma è la manifestazione delle sardine. Lo so che come? Namo. Che te frega te la manifestazione qualunque. Io sabato avrei una colazione. A fanno i risse, pare. Andiamo a menare, sennò che cazzo ci andiamo a fare? Non perché fa risse? Prima parlavi di risse. Che negli anni 40, quando sei nato? Nell'anni tu facevi le risse, che facevi? I manganelli? Negli anni 40, ma sono ancora facevi le risse, quello era capace. Ah, già 70 anni, quanti anni c'hai? Comunque, visto che sei a Milano, domani mattina almeno vai alla Fondazione Prada. A farmi le scarpe. Beh, ma che scarpe? Sono tutti quadri. È una collezione privata meravigliosa la Fondazione Prada. Sì, è molto bella, però devo dire la verità. Ah, bene. La Fondazione Prada, c'è un bel ristorante. Andiamo a mangiare allora. Che te lo dico? Ma che sai, in un museo? Prima si guarda il museo con calma, si vedono le opere, si cerca di capire. Allora, la canzone guida delle sardine, che io non sopporto, è una Bella Ciao, che a te Madonna, non piace. No, Giuseppe, sì, bravo Giuseppe. Come Bella Ciao? Bella Ciao. Bella canzone delle sardine. Ogni volta che si va in piazza. Piacere umano, quella là. ma che cosa dice quella canzone della resistenza? Ma dove è cresciuto? È una bestia. Ma com'è che fa il tuo ritornello? Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, piace l'umano. Ma chi l'ha insegnato sto sconcio? Un ciò devi a mano. Ma sto sconcio, chi l'ha insegnato? Questa è la trasformazione di destra. Ma questo va rieducato completamente. Adesso mi devi cantare bella ciao. Costringo a cantare bella ciao. Ti costringo. C'è pure la bandiera qua. Vai, parti, la corda. Dai, ce l'hai bella ciao, vai. È come sfregiare una canzone. Vai. Una mattina, mi sono svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Parapapapa, upa maresu, che c'è l'umano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, papà adesso piace l'umano. Ma è una cosa, è una persona agghiacciante. Vai, vai, continua. Bella lana, na, na, na, aspetta una, no? E se muoio, da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio, ma attacca il cazzo. Ma che dici? Io vorrei che in Brasile incontrasse il professor Luciano Canfora. Là sui montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se per dire, per farli sparire, si ruba dentro le case. Non vedi come stiamo, facci il martello, mo bruciamo tutto. No, sto scherzando. Allora, il brasiliano con la falce e il martello, l'ultimo passaggio. Grazie, grazie, Brasile. Dai, allora, brasiliano con la falce, la vuoi? Dai, la falce e il martello. Che sa, la foto? Avvolto dalla falce. Aspetta, ma avvolto dalla falce e il martello, brasiliano. Piano, piano. Sì, mi vede mio padre, è contento. Appunto, tuo padre. Ma è fuori dalla galera il padre? Mio padre sta a casa adesso, papà. Mo te lo faccio conoscere. Gli arresti pure. Sì, sì. Ancora fino a maggio. Però ha delle grosse lacune storiche il Brasile. Deve incontrare il professor Canfora, secondo me. Come va l'amicizia con Vauro? L'amicizia con Vauro si sta sempre meglio, ti dico la verità. Sì, cioè, sì, è diventato amico della notizia, però sono diventati amici. Scambiano messaggi, incontri. Allora, posso dire che il 15 andiamo a Re Bibbia insieme? Ma no, che però occhio che ti tengono dentro. No, stai bene così, Paresso. Guarda, che si te porta a te vanno a quello al braccio di Maria Cilla, sta buono. No, il 15 andiamo con Vauro a Re Bibbia. Ma se tu incontrassi qualche pedofilo, l'avrai incontrato in no, galera? No, gli sparamo, Giuseppe, dica la verità. Ai pedofili, sì. Sì, sì, sì. No, se mi violentano un parente, gli sparo. Sì, sì, no, gli meniamo e basta per strada, così. Beh, no. Però i pedofili, cioè... Ma come gli meniamo e basta? No, c'è lo stato di diritto. No, lo stato di diritto. I pedofili sono i pedofili, dice. Pedofilo è una cosa che ma c'è la legge, parte. C'è la legge. Guarda, caro Paresso, quando li arrestano non mettono nemmeno le iniziali sui giornali, a differenza di quei bravi ragazzi che fanno le rapine, gli mettono nome e cognome. No, vabbè, però ci stanno quelli che lo fanno per fame, perché c'hanno fame. Fame nessuno fa la rapina per fame. Nessuno fa la rapina per fame. Però tu dici, i pedofili andrebbero messi con nome e cognome. Nome e cognome, e nei comuni, quando ti arrestano, tu devi stare nel braccio dei comuni, così ti fanno un bucio di culo, così come tu hai fatto legge, ai bambini. Secondo secondo che lei leggesse dei delitti e delle pene. Te voglio bene, Paresso. Ciao, grazie Brasile. Ciao, ciao, ciao. Aspettando la zanzara. Ma è con noi la grandissima Paola Saulino. Eccoci qui, Paolina. Ciao ragazzi. Madonna, tutte cose pesanti. Mamma mia, no. Guarda, è Parenzo che ci mette mamma l'ansia mia. Di continuo, l'ansia, un'ansia no, continua. È di tempo, la lagna, mamma mia. Mamma mia. Divertiamoci. Allora, io voglio affrontare un tema fondamentale che ho visto un po' molto in un tuo tutorial, il leccame delle palle, che mi sembra un tema essenziale per i nostri tempi, soprattutto nei rapporti di coppia. È molto sottovalutato. In realtà io lo pratico da parecchio tempo, nel senso faccio praticare da parecchio tempo. Bravo, bravo. Beh, sì, assolutamente. Una delle prime cose, se una donna non mi lecca i coglioni, ragazzi, di che ma stiamo parlando? Ma non gli piace proprio, ma non si può stare brava, con una diciamo la verità. Non si è desiderati. Donne, dai. Donne, se non leccate i coglioni mamma al vostro mia, compagno, le palle al vostro compagno, non siete all'altezza della situazione. Cioè, mamma non siete mia, mamma ma diciamole le cose